alla del vizio, musica e spazio dal timbro fittizio. Con Dottorio, Reverendo e Baldambezzo, sintonizzate, vi restate sul pezzo. Non manca uno del resto a fare grezzo senza pretesto. Questa è l'arte, l'arte in chiodo fisso. Siamo quelli che con la musica c'hanno l'impiccio. La barriera del suono è interstizio. Benvenuti qui stasera all'arte del vizio. Genere blatera di patologia errafica e genere in pratica la patetica opinione di distinzione sociale per naturale predisposizione. Affermazione non del tutto errata se si considera. Eh sì, ci troviamo qua in mezzo a un tappetino di qualsiasi tra, a una splendida pianola che batte il ritmo. Intanto io insisto, perché sul freestyle tastiera non c'è mica scritto quello che fai e nessun indizio. Io sì, parto dall'inizio e me lo sai che se sei seduto su uno sgabello non ci stai. Il mondo è troppo piccolo e sì, conquistiamolo, dai. Benvenuti ragazzi, voi pochi ascoltatori qui all'Arte del Vizio. Stasera sarà una serata un po' così, un po' di scazzo, un po' di live, un po' di intrattenimento giocoso. Siamo qua un po' in banda, abbiamo Dottorio al basso, Albus alla tastiera, ovvero denominata infamatamente pianola. Perdonaci Albus per la nostra ignoranza. E abbiamo qui il mistico e morbidissimo Reverendo con le sue manine sui livelli dei volumi. Oggi ho scoperto di avere i fianchi particolarmente stretti e ci sono rimasto male, palmi. Comunque sì. Era per questo che mangiavi mezza fettina di pane abbrustolita. Assolutamente, per mantenerli. E benvenuti su Radio Wombat, interrompiamo questo silenzio che non si sa da quante ore va avanti. Tra l'altro, invitiamo i lombattiani a comunque, insomma, cioè è un po' anomala questa cosa. Abbastanza. Comunque, allora vi salutiamo. Poi c'era Dottorio che voleva fare un saluto speciale a dei suoi amici. Allora, poi vi mandiamo un pezzone. Volevo dedicare questa puntata a Lorenzo, Monica e la piccola Nora. Un abbraccio, un bacio. Ciao Nora, ciao Lorenzo, ciao Monica. Grazie doctor, se vuoi scriverci anche alla posta del cuore fallo al 346 666 666. Se non ci sei è uguale, fa lo stesso. Comunque, se volete scriverci fatelo a frittole@gattini.ninja, anche se non sappiamo se funziona ancora questa mail, perché oppure non ci scrivete mai. Il pad di radiowombat.net però a quanto pare non va più. C'è il silenzio assoluto. Questa radio scade a pezzi. Radio scadenza. Vi lasciamo con Les Claypool, One Better. Ciao ragazzi. Ale. Siamo un po' arrangiati stasera, eh? Sì, arrangiati. Questo microfono. Poi vi racconteremo perché e purtroppo anche per, diciamo, forze di causa maggiore. We'll be right back. Eccoci tornati con questo pezzo che dura un'infinità. E che dire, allora ragazzi, purtroppo noi avevamo cercato di organizzare uno splendido evento con i Matti delle Giuncaie, che sono questo gruppo molto molto bravo e che o comunque personalmente mi piace tantissimo. E... no, scusate ragazzi, cioè il reverendo mi fa dei segni che non capisco. No, allora ti dico di far andare della musica tra una frase e l'altra. Ok, facciamo andare della musica. Stasera qui mancano i Matti delle Giuncaie. E causa Covid. Esattamente così che si fa, Palmi, grazie. Palmiro uguale sintesi, solo stasera. Hashtag molto dispiaciuto. Oh. Sì, allora, a me sarebbe tanto tanto piaciuto continuare il nostro set, la nostra stagione di live qua nei Frittole Studios, ma stasera purtroppo le restrizioni hanno impedito ai nostri amici ospiti di raggiungerci. Sì, di raggiungerci, ma comunque io e Reverendo e tutta la compagnia che stasera si trova qua ci impegneremo a mantenere tutte le dovute distanze, a disinfettarci le mani, a farci i cazzi nostri. Comunque... yo. Stasera sono una pedina in mano nelle mani di Reverendo. Pedina in H2. Gambetto di donna. Comunque volevo fare un breve saluto ai nostri amici di Tonight Alive e al professor Apollo. Per i mitici podcast sui King Crimson. Davvero dei bomber, andateveli ad ascoltare su radiowombat.net. Se volete sapere tutto sui King Crimson e diventare feticisti dei King Crimson, ascoltate quei podcast su Tonight Alive. Zulu Nation, brothers last creation, minds get flooded, ejaculation, right on the 2-inch tape, the abstract poet incognito runs the cape, not the best, not the worst, and occasionally I curse to get my point across, so bust. Va bene, dai, sì, fallo. Faccio, allora faccio. Iniziamo questa puntata, a meno che non volevi leggere tu, Diesis, ok, leggo io. Ok, Diesis non vuole collaborare stasera, sono molto dispiaciuto. Proprio perché... proprio perché... dai, questo articolo di cosa tratta? Toglimi lo sfizio, la curiosità, fammi capire allora, un attimo. Dato che abbiamo molto tempo, Palmi, voglio far andare della musica in sottofondo. Ok. Dato che abbiamo molto tempo. Allora, questo articolo parla di coprifuoco e si chiama Il coprifuoco e la paura del nostro passato. Un articolo tratto da lastoriatutta.org. L'hai trovato, Palmi? No. Aspetta che lo scrivo. Coprifuoco. Hai trovato. Fatti la lettura. Gennaio 1942, Castelli fornì. Un piccolo villaggio nei pressi della cittadina di Agios Nikolaos, Creta orientale. Leonida Amariotaki, 45 anni, viene arrestato dai carabinieri italiani perché è trovato a circolare dopo il coprifuoco. condotto in tribunale, Leonida si giustifica affermando che era uscito di casa di notte perché aveva sentito il bisogno improvviso di espletare bisogni corporali. Dopo un breve processo la corte gli dà ragione, considerando che nell'impellente bisogno di atti corporali determinati da disturbi gastrici si può ravvisare uno stato in cui, specie quando imprevisto, non si può porre rimedio, e che è umano pensare che chiunque in simili condizioni avrebbe agito come l'amatoriaki. A Mario Taki, scusa. Back in the days when I was a teenager, before I had status and before I had a pager. Il greco viene tuttavia condannato a un anno di detenzione, pena poi temporaneamente sospesa, per essere stato trovato in possesso di due paia di scarpe e di una giacca militare, probabilmente provenienti dai magazzini dell'esercito italiano occupante. Come on everybody, let's get with the fly mode. Still got room on the truck load of black. Dopo il clamoroso fallimento della campagna militare italiana contro la Grecia, nell'autunno del 1940, il paese era stato sconfitto e occupato grazie all'intervento tedesco nella primavera successiva. A partire dal maggio 1941, anche Creta era caduta nelle mani degli invasori, tra cui gli italiani, che amministreranno la provincia orientale di Lasithi, fino al settembre 1943. È qui che nel gennaio 1942, Leonida Amariotakis, trascrizione italiana la cui forma corretta è probabilmente Amariotakis, si imbatte nella ronda dei carabinieri e nella giustizia militare italiana. If you buy chum, what's in that? What? A pair of Nike size 10 and a half. Micro disavventure come quella di Leonida abbondano nelle carte dei tribunali militari italiani, in Grecia come Jugoslavia, in Albania, nella Francia meridionale o in URSS durante la Seconda Guerra Mondiale. Queste piccole contravvenzioni alle norme istituite dagli invasori ci raccontano di un tentativo comune a molte occupazioni della storia di istituire forme di controllo capillare su una società che si percepisce come potenzialmente ostile. L'esercito occupante si trova infatti a dominare una società per lui opaca, la cui solidarietà interna, determinata da legami di tipo familiare, locale, etnico, pone una sfida che difficilmente può vincere. È una situazione simile a quella coloniale, dove però le autorità dello Stato colonizzatore hanno a disposizione molto più tempo per impiantare forme di potere stabile. L'occupazione invece è per sua natura transitoria e instabile. Ciò accomuna il comportamento del potere occupante a quello degli stati attraversati da violenti disordini, come ci ricordano le città americane in cui solo pochi mesi fa sono esplose proteste contro la brutalità della polizia verso le comunità nere e dove è stato istituito il coprifuoco. Nelle memorie private, d'altra parte, l'arrivo dell'esercito occupante è spesso legato proprio a queste invadenti prescrizioni che penetrano nella sfera privata e influiscono pesantemente sulla quotidianità della popolazione occupata. Le limitazioni al libero movimento, il controllo sulla produzione e distribuzione dei prodotti mediante il cosiddetto ammasso dei beni agricoli o il sistema delle tessere annonarie, la proibizione di detenere oggetti di uso comune, come la radio o banalmente un'arma, spesso vitale nella quotidianità di un contadino di montagna o di un pastore. Sono solo alcune delle regole che in maniera evidente modificano la vita delle regioni invase dall'esercito fascista durante la Seconda Guerra Mondiale. Parte integrante di questi dispositivi di controllo è anche immancabilmente il coprifuoco, termine che ha origine nell'uso medievale di imporre la copertura del fuoco nelle case ad una certa ora per prevenire il diffondersi di incendi. Nel corso dei secoli questa parola è venuta ad indicare tutte le disposizioni riguardanti la vita serale e notturna, e in particolare il divieto di uscire di casa. E la notte, quindi, vista come il momento ideale per svolgere attività illecite sottratte alla vista del potere, il nemico del coprifuoco. Per quanto ne sappiamo, non è stata ancora scritta una storia di questa misura di controllo, anche se recentemente, in seguito alla sua imposizione per prevenire la diffusione del Covid, intellettuali di ogni paese sono andati alla ricerca di precedenti nella storia nazionale in cui tali misure sono state imposte, spesso mettendo in guardia contro il ritorno di fenomeni totalitari nelle società liberali. Nel marzo scorso è stata la stessa Angela Merkel, cresciuta nella Repubblica Democratica Tedesca, a ricordare ai tedeschi: agli occhi di una persona come me, per cui il diritto di viaggiare e muoversi liberamente è stata una dura conquista, queste limitazioni sono giustificabili, sono in condizione di assoluta necessità. Durante le occupazioni fasciste della Seconda Guerra Mondiale, il coprifuoco non era solo un modo per controllare la popolazione, ma anche, spesso, per punirla. A Spalato, incorporata nel governatorato di Dalmazia il 15 aprile 1942, ricorre il primo anniversario dell'entrata delle truppe italiane in città. Alle celebrazioni, però, partecipano solo rappresentanti delle autorità, fascisti e membri delle comunità della comunità italiana, mentre la maggioranza dei croati rimane a casa come forma di protesta. Nei giorni successivi, il prefetto ordina per rappresaglia l'estensione del coprifuoco e proibisce l'usuale passeggiata sul lungomare. In maniera simile, in quasi tutte le aree dove è attiva la guerriglia partigiana, gli occupanti estendono il coprifuoco. Questa misura punisce in sostanza l'intera popolazione, rendendo più difficile, se non impossibile, svolgere alcune attività economiche. L'obiettivo è quello di alienare le simpatie di cui gode il movimento partigiano, togliendoli l'indispensabile appoggio della comunità. Her name was Flo. Yeah, I messed around with the one called Flo. All the troopers round the way used to call her a hoe. Il coprifuoco viene talvolta utilizzato anche come pratica repressiva da un punto di vista strettamente militare. Di notte, infatti, è più facile per l'esercito occupante effettuare arresti in città deserte, dove gli abitanti sono costretti in casa. È quel che succede ad esempio a Lubiana, attuale capitale della Slovenia, interamente circondata dal filo spinato nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 1942. Nei giorni successivi vengono proibiti gli assembramenti di oltre 3 persone e Lubiana assume, secondo un testimone, l'aspetto di una città assediata. Il coprifuoco, in vigore dalle ore 17, facilita il lavoro degli occupanti italiani, che rastrellano interamente la città e arrestano migliaia di persone, tra cui quasi tutti i giovani maschi. I casi più comuni di infrazione delle norme sul coprifuoco riguardano però taverne, osterie e caffè, esattamente come accade oggi. Sono questi i luoghi più colpiti, in quanto centri di ritrovo della popolazione e dunque fonte di potenziale pericolo per gli occupanti. Ma anche semplicemente perché si tratta dei classici luoghi di ritrovo serali o notturni, in Jugoslavia e in Albania come in Grecia. Il 31 dicembre 1942, per esempio, sempre nella zona di Creta, sotto occupazione italiana, una pattuglia fa irruzione in un caffeneio, arrestando il proprietario e 7 avventori intenti a consumare alcol. Ampiamente oltre l'inizio del coprifuoco, tutti si difendono sostenendo che pensavano fosse eccezionalmente consentito, essendo Capodanno. Nei villaggi greci di Cafenio, reverendo, è il centro della vita comunitaria a Cafenio. Pertanto è proprio a questi luoghi che i fascisti guardano con maggior diffidenza e disprezzo. Il sociologo fascista Carmelo D'Agata ritiene addirittura che la fame sia una scuola di vita per i greci, perché li tieni lontani dai caffè costringendoli così a incivilirsi. La guerra, scrive nel 1943, ha obbligato il popolo greco ad abbandonare abitudini inveterate, come ci ha sussurrato il reverendo, basate sul quieto vivere e peggio ancora sull'ozio, spingendolo a cercare nel lavoro di che sostentarsi, nel risparmio una riserva di mezzi per l'immediato domani. Oggi i caffè, i locali di ritrovo, le sale da gioco non sono così frequentati come lo erano un tempo. Oggi ognuno è costretto ad attivarsi per procurarsi mezzi per vivere. Non fosse altro che ramingando di qua e di là o facendo delle lunghe file negli spacci, attendendo pazientemente il proprio turno. Queste nuove abitudini di vita, tanto profondamente diverse da quelle di un tempo, finiranno a lungo andare per imprimere come una seconda natura sulla generazione che questo periodo eccezionale matura. Esse eserciteranno un'influenza su tutta la vita, loro e su quella dei loro discendenti. Allora, l'articolo finisce dicendo che le disposizioni attuali sul coprifuoco seguono logiche ovviamente diverse. La prevenzione sanitaria in sé non ha niente di repressivo e non c'è alcuna ragione punitiva o intento persecutorio nelle norme che vengono emanate in questi giorni. Discutibile, vabbè. Tuttavia un dato rimane coerente col coprifuoco del tempo di guerra: la percezione da parte delle autorità che il pericolo si annidi in modo particolare negli assembramenti notturni. La notte rimane il momento della giornata meno controllato e controllabile, lo spazio della socialità giovanile, per definizione sregolata. Insomma, non si vuole punire la movida, ma certo appare evidente come le norme contro la socialità notturna siano il frutto della permanenza di una sorta di paura dell'ignoto, dell'incontrollato, quasi un terrore atavico e irrazionale per il buio della notte. La notte che un tempo popolava di feroci partigiani, gli incubi dei nostri soldati, mandati a occupare terre non italiane, oltre Adriatico, e che oggi sembra essere terreno più fertile per la diffusione della pandemia. Caffinio. Peso, è il caffinio, diciamo, è il bar greco, è soprattutto il caffè. È caffè, credo, sì, cosiddetto sì. Kawa in arabo. Va bene. Comunque, quest'ultimo paragrafo sarebbe molto peso. Questo sarebbe molto interessante come oggetto di dibattito, per uno scambio di idee. Ma io prima, cioè, una cosa di tutto, mi è saltata all'occhio questa lunga citazione da Carmelo D'Agata, questo sociologo fascista, sì, che dice che la guerra ha obbligato il popolo greco ad abbandonare tutta una serie di abitudini, quindi l'ozio e incivilirsi. Il gran cazzeggio, per incivilirsi per il lavoro e finalmente svilupparsi, non so come dire. E comunque sì, grazie a questo scenario di guerra, insomma, lui, questo sociologo, è convinto che tutte queste misure eserciteranno un'influenza su tutta la vita e su quella dei loro discendenti, cioè una seconda natura sulla generazione che questo periodo eccezionale matura. La riflessione che lui fa, cioè, porta anche l'osservazione, no? A riflettere sul fatto di quando dice spingendolo a cercare il popolo nel lavoro di che sostentarsi, quindi a cercare un motivo di vita nel lavoro, e quindi costringendo anche una popolazione, ora magari è presa molto alla larga, a cercare un senso nella vita soltanto lavorando, anche perché uno deve sopravvivere, quindi costringendo anche una popolazione allo stacanovismo, che è chiaramente anche una forma di depressione, no? nelle persone, e quindi anche così indebolendo una popolazione. Questo, scusate la derubricazione. Comunque sì, pesantello. Sì, si potrebbero fare molti commenti riguardo allo stato odierno, per cui i nostri cari amici non si sono potuti recare qua proprio perché le abitudini sono cambiate. Ci sta bene tutto questo? Io non so. A me no. Penso che tu, cioè, ora tutti i nostri pochi ascoltatori stasera non possono vederlo, ma te che sei di fronte a me e stai igienizzando il mouse, puoi vedere quanto io, insomma, hai visto le zampe di gallina mi stanno venendo, i capelli bianchi e lisci, le gote che mi scendono, che mi scendono dal malumore, e queste lacrime che si seccano appena escono dagli occhi. Comunque, cari ascoltatori, non tutto è perduto e ora vi... No, vogliamo i nostri ospiti in studio vogliono commentare per caso tutto questo. Sì, vedo abbiamo Diesis, abbiamo Dottoria, abbiamo Uno, abbiamo Faggiano con 2G. Faggiana con 2G. Faggiano o Faggiana? E spieghiamo anche il sesso, no? È con la schwa Faggiano. Faggiano. Faggiana. Comunque dai, a parte le cazzate, ragazzi, noi volevamo farvela pigliare un po' bene, noi siamo un po'... Ah, non male. Non male. Okay. Vabbè, dai, mandiamo un altro po' di musica, se voi volete preparare il prossimo show. Sì, dai, prepariamo il prossimo show. E comunque, se volete scriverci qualsiasi tipo di cazzata, non dimenticate di iscriverci sul pad per le dirette su radiowombat.net, oppure scriveteci su frittole@gattini.ninja. Yo. I worked too hard for this. No more will I take the booty end of the stick. Bogus brothers making albums when they know they can't hack it, 'cause they lyrics display like eight ball jackets. Now tell me I can't tear it up. Go get yourself some toilet paper, 'cause your lyrics is butt. Do you wanna be in the business? The people can't walk straight line. And the some business. Of these brothers can't rhyme. And the hey yo, I'm trying to get mine. The party scene is cool, but then again, it's all the same. You see the same faces, but at different places. When you're up and riding high, everything is pouncy-pouncy. Get £1 million and all the skins give you hugs. Well, that's cool, I can dig it. It really ain't my bag, prefer to max on the side. I let my pants sag. Oh, he's a cutie. Yeah, real cute, but I wasn't that cute when I didn't have no loot. Although I hit a pound of herbs, I'm still nice with the verb. So fuck what you heard. The born cypher master makes me think much faster. But critics still continue to plaster my name and discredit my fame. All that shit is game, and I don't really give a damn. Eat from the tree of life and throw away the verbal ham. Well, excuse me, I gotta add my two cents in. Don't be alarmed, the rhyme was condensed in a matter of minutes, so it must be told. All that glitter's not gold. Everybody wants a deal. Help me make a demo, see my name in bright lights, ride around in a limo. My mom's keeps beefing. Boy, get a job. But I wanna make jams, damn, I know I'll slam. Huh, well, it's not that easy. You gotta get a label that's willing and able to market and promote. And you better hope. For what? That the product is dope. Take it for diamond. It's like mountain climbing. When it comes to rhyming, you gotta put your time in. Get a good lawyer so problems won't pile. You don't wanna make a pitch that's wild. There won't be no duds here. Rappers play the dumb. Kinda on the space tip, but when they hear the jam, they be on the deals. E continuiamo con Tribe Called Quest, Low End Theory, questo album del 2000, non so. No, gran cazzate del 1991, regat. With a lot of steam, think I gotta stream. cause that's how good it feels, child, let your head down, so we could get buck wild, do your ill dance, don't think about the next man, we must have unity, and think of the bigger plan, the vision we will fall, we must stick together, see, I like to take this time, to say what's up to Cool G, the name is Q-Tip, the Midnight Marauder, give enough respects to Afrika Bambaataa, as a man in the world, I must do my job, take care of Mama Duke, I won't resort to Rob, Bob, you get your dough, Mace is my witness, obsessed with the rap, but it's the mental fitness, like shooting CeeLo, and always hitting head cracks, the industry is luck, winning with the fake raps, beats to the cool schools, pump the real hip hop, not selling out, from hard rock to disc jock, I don't know what to say, but here I go freaking, if the papes come, then you know I'll seek it, I'm just a short brother, dark skin face, weigh a buck 50, 36 waist, hair is crazy curly, flip like Mr. Furley, to this day I still believe that no MC can serve me, brothers try to front, but everybody know, I get more props than the Arsenio Hall, so party animal I was, but now I chill at home, all I do is write rhymes, eat, drink, shit, and bone, find my thrill in Amityville, I'm always in the island, fudging luck, you know the time, they know who keeps me smiling, go out on my own, something that I gotta do, do what the hell I want and have no one to listen to, I'm prompt with my business and I do things on the double, yo, I'm out like Buster Douglas, I say peace to MC Trouble, rest in peace. Word up, rest in peace, and you know what else, we got the vibe, all the people in Long Island, we got the vibe, Brooklyn and Queens, we got the vibe, Uptown and Nauru, we got the vibe, for upstate, we got the vibe, if you're in D.C., you got the vibe, Maryland, Virginia, Carolina vibe, out west, we got the vibe, in the Bahamas, we got the vibe, over in Europe, you know what, we got the vibe, we got the alive, it goes on. Of rap, I'm a fan. I've seen a whole lot of slumps, good with the girls. I get a whole lot of bottom fat to skinny, Frida to Winnie, Emma to Cindy, Constance to Wendy. Cause I be real friendly, never on the snotty side. I don't brag to brothers about the little cakes I got. My couple styles can vary. The sight is never scary, it's only legendary. My father well prepared me. My job ain't temporary. I'm here for the long shot. Better yet, the long term. I don't have a perm. In a way, I do. Call them the permanaps. I'm crazy, slap happy. And I'm scrappy and I'm happy. When I get the mic in my hand with the crowd in the stand, it's as good as grand like that. And I wanna say peace and dedicate this joint to MC Trouble and to Trouble T Roy and to Scott LaRock and to Cowboy. You know what I'm saying? This is for the slain rappers and the fallen rappers. You know what I'm saying? This is a special dedication. And also to my pops and also to Vinny and his moms. You know what I'm saying? You just gotta keep it happy and keep the vibes going, cause this is vibes and stuff, and we out. Thank you. Fischi. Yo. I fischi. Mi aspettavo un da solo. Sì, tipo... Ce l'aspettavamo tutti. Poi mi rendo conto che mi sfido, mi nascondo dietro un albero di oscura rarità. Io ho fritto le ensemble 20-28 minuti. Mamma mia. Fritto le gem. Mi sono commosso. Questi musicisti mi fanno sempre molto emozionare. Anche a me, Palmi, se non fossi tu, guarda. Ah, se non fossi io, no, hai svelato il segreto professionale, ora. Diranno tutti che me la dirò. Allora, Palmiro il chitarrino, Albus John, detto Silente, al tasterofono. Al tasterofono. Dottor io, dottor noi altri, dottor Coloro. Colore al basso. Al basso e Diesis la voce popolare. No, non popolare. For a place, we are. Allora, scusate questo cambio improvviso. Lo so, non è stata una transizione facile da George Benson, ma ora ritorniamo qua con la Frittole Studio Ensemble. Ringraziamo ancora una volta la nostra band, che annovera un nuovo componente, ci ha raggiunto il batterico Mannaro. Bene, qui con voi a Diesis, buonasera a tutte e tutti. E sono qui per introdurvi il prossimo contributo. È un peccato interrompere questi fantastici musicisti nel pieno della loro creatività, quindi li lascerò andare ancora un po'. Di Frittole, ringraziamo ancora i fantastici Tappetini Live e siamo pronti a presentarvi un piccolo podcast che abbiamo ripescato dal canale Telegram delle nostre care amiche della Vampa di Napoli. Colgo l'occasione per salutarle. Ebbene, è un podcast che non hanno fatto loro, ma stanno anche loro inoltrando da delle ignote autrici che vengono dal futuro. Attenzione, un podcast dal futuro, dicono, il cui finale è ancora tutto da scrivere. Pare tocchi proprio a noi. E infatti questo podcast pubblicato in occasione dell'8 marzo, ci augurano un buon 8 marzo di lotta, scusate il ritardo, a tutte coloro che lottano ogni giorno. Dunque, buon ascolto. Dai l'accendino. Allora, abbiamo interrotto il chitarrino di Palmiro per fare partire questo podcast, ma non sta partendo, per cui correggiamo. Chissà, una barzelletta. 1, 2, 3, quanto è cavallo? Re. No, non ho nessuna barzelletta simpatica. No, davvero? Me ne viene una, ma mi sembra è a sfondo, cioè è sessista. Erotico? È sessuale, però è... Parla della lunghezza del membro, ma andrebbe a influire sulla cioè sui nostri problemi, sulla mascolinità. Ok, ce l'abbiamo. Dai, a posto, non lasciamo, è il caso, ciao. È l'8 marzo. No, insomma, non è il caso, cioè, no, appunto. Per favore. Zia Gea, mi racconti ancora la storia della pandemia? Ancora quell'orribile storia? Non sei stanca di riascoltarla? Sì, ancora. Mi piace come va a finire. Va bene. Allora, per cominciare, ci facevano credere di essere in guerra. Ci abbiamo messo un bel po' a capire che la guerra non era contro il virus, ma contro di noi. Questo è l'ordine del sindaco di Luca e basta! Dove cazzo vai? Con la gatta! Cacci il culo! Ecco qual è il modo per farlo! Ma la gente moriva. Sì, moriva in casa, negli ospedali, ma soprattutto veniva lasciata morire nei centri per anziani, nelle fabbriche, nelle carceri, nei dormitori e per le strade. Ovunque ci fossero vite che lo Stato non riteneva necessarie, c'era morte. È certo che morivano nelle galere. Così tutte ammassate e rinchiuse, era ovvio che si sarebbero ammalate. Sì, certo, ma il peggio è che non morivano solo di virus. Morirono perché si ribellarono, perché nelle carceri non accettavano di non poter più vedere i propri affetti e di stare zitte, ammassate in attesa di ammalarsi. Chiesero libertà e ottennero violenza e morte. E chi stava fuori? Si ribellò? In quel periodo anche fuori eravamo rinchiuse. C'era l'obbligo di restare nelle proprie case. Ma molte donne non obbedirono e si riversarono sotto le mura delle carceri a chiedere libertà per i propri affetti. Siamo donne con bambini, guardaci, stiamo qua fuori e da qua non ci muoviamo. Libertà, libertà, libertà, libertà. Mamme, mogli, figli, siamo tutti qua fuori, vogliamo notizie. Mi passi una tazza di tè? Ah, sì, certo. Cara. E perché proprio le donne? Perché le madri, le mogli e le sorelle si facevano carico di tutto il lavoro di cura per i detenuti e le detenute. Sai, all'epoca tutta la società era ancora cis-etero-patriarcale e il carcere non era certo da meno. Che noia sto cis-etero-patriarcato, zia. Lo infili sempre in tutti i nostri racconti. Sembra che non ci fossero altri problemi. Caspita, come si vede che sei nata dopo la fine del cis-etero-patriarcato? Quella era la base di tutte le relazioni sociali. Pensa solo al fatto che, durante la pandemia, gli unici rapporti consentiti erano quelli con la famiglia di sangue, la stessa che ti cresceva all'interno delle regole ferree del binarismo di genere. È stranissimo, come se noi non ci potessimo più vedere. Chi ti farebbe gli impacchi di ortica per l'artrite? Noi non ci saremmo più potute vedere, ma non è il peggio. In quel tempo molte altre donne si ritrovarono chiuse in casa con i loro aguzzini o caricate di tutto il lavoro domestico con mariti, padri, figli e figlie, per non parlare di tutte quelle soggettività che nella famiglia tradizionale uomo-donna non avevano mai trovato il loro posto e dalla quale sono sempre scappate. Ok. In effetti capisco il tuo odio per il patriarcato. E qual era quell'altra ossessione di cui parli sempre? Quella linea invalicabile ma invisibile? Le frontiere, intendi? In quel periodo si erano moltiplicate e rafforzate, non per le merci naturalmente, che viaggiavano indisturbate più che mai, ma per gli esseri umani. Pensa che erano addirittura state istituite delle prigioni in mezzo al mare per rinchiudere le persone che tentavano di raggiungere l'Europa dai paesi colonizzati. Non riesco a capire, ma quindi c'erano muri ovunque? Come riconoscevate queste frontiere? Muri ce n'erano molti, ma allora ogni divisa era una frontiera e le divise erano sempre di più, nelle strade, in mare, sulle montagne. E il peggio è che la maggior parte della gente continuava a credere che quello fosse il migliore dei mondi possibili. No, no, zia, questa parte non posso proprio sentirla, mi fa venire una cosa nello stomaco. Com'è che si chiama quella sensazione lì? Ah, l'ansia, no? Certo, l'ansia. Cara mia, sapessi quanta ne avevamo noi. L'ansia era la malattia del capitalismo. Anche questo era uno strumento del potere. Secondo te, com'è stato possibile controllarci e tenerci chiuse mentre ci affamavano? Non bastava la paura del virus, perché qualcuno tra di noi aveva cominciato a capire che quello non poteva essere l'unico modo di affrontarlo. Il controllo allora era sulle nostre emozioni, sui nostri corpi. Ok, ok, ok, ho capito. Però dai, passa direttamente alla parte bella, per favore. La parte bella. Non sai che fatica e come è stato difficile. A ribellarsi c'è sempre un prezzo da pagare. Però, in fondo, è stata anche una gran festa. Quante volte mi avete detto, ricorda Luna, la memoria è importante. Sono tutta orecchie, zia. Ad essere sincera, a un certo punto sembrava davvero impossibile che le cose potessero prendere un'altra piega. Anche tra di noi c'era chi non ci credeva più. E il rischio più grande era abituarsi a quella situazione e lasciare che il nemico si insinuasse nella nostra rassegnazione. Non c'è riuscito però, o sbaglio? Se no non saremmo qui. Non saremmo qui. Non c'è riuscito. Pian piano sempre più persone si resero conto che le condizioni di reclusione e limitazione della libertà di movimento che stavamo vivendo non erano una novità, ma erano una costante da ben prima dell'inizio della pandemia, nella vita di moltissime persone, e l'emergenza aveva solo peggiorato le cose. Più crescevano le disuguaglianze, più cresceva in noi la rabbia. E poi fu un attimo che non una, ma centinaia di scintille cominciarono a bruciare in tutto il mondo e noi non facemmo altro che accogliere quel fuoco con incredulità ed entusiasmo. Di volte prendevano forma a chilometri di distanza da noi e ci parlavano, ci interpellavano e ci imponevano un'azione immediata. Da un giorno all'altro furono evasioni sulle note del reggaeton transfemminista. Tavolate infinite occupavano le strade, pentoloni bollivano tra le barricate. Insieme alle brigate di salute popolare, poi, ci prendevamo cura di chi era malata. Tutto il lavoro sulle relazioni e la cura che avevamo portato avanti dava i suoi frutti, perché ognuno riusciva a stare nella lotta col suo modo e il suo tempo, e c'era spazio per tutte, tranne per i nemici, ovviamente. A un certo punto arrivarono addirittura i rinforzi, scesero le lupe dalle montagne, le rondini cambiarono il corso della loro migrazione per unirsi alla rivolta. I fiori della primavera, quell'anno, sbocciarono un po' prima. Zia, ma quello era il riscaldamento globale. Ah già, giusto. Vabbè, ma concedimi la licenza poetica. Per sfuggire al controllo, poi, tracciammo sentieri nei boschi. Il confine che ci avevano imposto tra città e campagna man mano scomparve. La natura riprese spazio nella città e noi ci riscoprimmo parte di essa. Come avevamo gridato per anni, colpo dopo colpo abbattemmo tutte le gabbie. Si cantavano canzoni di lotta a squarciagola, si improvvisavano rap, c'era musica ad ogni angolo. Le case tornarono ad essere rifugi, dove nascondersi, dove riposarsi, ma anche dove incontrarsi, vivere insieme e far fermentare idee da ributtare nelle strade. Noi, donne, lesbiche, trans, puttane, froce, pazze, eccetera, eccetera, creammo le nostre bande di autodifesa e non ci fu più pace per nessun fascista, stupratore o banchiere. Per ogni azione portata a termine, per ogni vendetta compiuta, nasceva una nuova banda. Stavamo finalmente cambiando il corso della storia. Il tempo scorreva con un nuovo ritmo e non sarebbe mai più tornato alla normalità. Luna rimane in silenzio sulla porta. Non vuole chiuderla, ma già sente la voce di suo padre che l'intima di smetterla di giocare con le altre dimensioni, che poi le vengono strane idee in testa e che se non la chiude lei, la porta la chiuderà lui e con le maniere forti. Sente la televisione accesa e sua madre sciabattare in cucina, mentre ascolta snocciolati i numeri dell'ennesima epidemia dallo schermo. Chiude la porta e pensa... Gea, te lo prometto, formerò la mia banda. Sto quanto soffro, vuela, que te pensaste que era el próximo objetivo. Cállate la boca, escucha este sonido. Se te muelle, primo. Un charco de sangre, la foto de la boda. Y ya la nueva vida negra de moda. Con sus titulares se fabrica la corona. Y no dudes que he elegido entre el talego y la soga. Tienen los aplausos como ecos de papirulo. Llego un tubitach pa' tu homenaje póstumo. Sabes los debates con discursos moralistas. Y ya sabes cómo se pone pa' que la chistas. No mires que te despistas. Vas a tener que vigilar esquina por esquina. Esta noche la balanza se inclina. Y se apuesta por las fuertes, se apuesta por las mías. No nos confundas de rango. Nos descubrimos como los anfibios. Esa bruja de tu barrio. Se está juntando peligro, peligro. No nos confundas de rango. Nos descubrimos como los anfibios. Esa bruja de tu barrio. Se está juntando peligro, peligro. Tengo los nervios galopando como galgo. Buscando una paz interior que no tengo. Entiendo. E ringraziamo le compagne della Vampa per averci inviato questo preziosissimo contributo, una gran bella storia, speriamo sia così nel futuro, che ci lasceremo alle spalle tutto questo. Sì, speriamo di concretizzare questo futuro. Questo bellissimo futuro, e cerchiamo di non farci scoraggiare da queste norme sempre più severe, che come abbiamo visto ci costringono a una normalità che appunto ci annulla, ci fa dimenticare quanto è bella la vita e quanto è importante invece ribellarsi ed esprimersi tutti i giorni. Ritorniamo qua col Frittole Studios Ensemble e via. Costruiamo anche noi la nostra banda, andiamo a costruirla. Sì. Per il momento abbiamo una band, ci manca solo una banda, ma ce la faremo. We'll be right back. E per avvicinarci verso la fine di questa gloriosa puntata numero 100.000 di L'Arte del Vizio, vi ricordo che siete sempre su Radio Wombat, ascoltabile su radiowombat.net e forse sui 1359 kHz a Firenze, e Firenze Nord soprattutto. Andiamo a leggere un estratto dall'ultimo numero uscito da La Ribellula, un aperiodico fatto dai nostri cari amici e amiche torinesi, forse, piemontesi. Questo è il numero 8, febbraio e marzo 2021, si trova anche in rete, anche se ce l'avete stampato, però portatecelo che noi non ce l'abbiamo ancora. Sempre in tema della puntata, il primo articolo della Ribellula è: a cosa serve lo stato di emergenza Covid, la legislazione speciale, il divieto di manifestare? Punto di domanda. Nelle ultime settimane le cronache, se epurate dei distrattori ormai onnipresenti, ce lo spiegano magnificamente. Mentre che i cittadini iniziano a chiedersi a che cazzo di gioco stanno giocando, i governanti raccolgono i frutti del lavoro di un anno pandemico. E qua sono riportati tre esempi a partire dal Piemonte. Numero 1. Anche se niente funziona più come prima, funzionano regolarmente gli sgomberi delle occupazioni, anche quelle abitative, che mandano la gente in mezzo alla strada, con una sola novità. Invece che nelle camionette, gli occupanti vengono portati via in ambulanza per un tampone rapido, come per esempio a Torino in corso Giulio il 19 gennaio. Funzionano anche i processi agli anarchici, che finiscono in galera a frotte in tutta Italia, stile oppositori politici a Pechino, ma con meno clamore. Il diritto occidentale garantisce un bel polverone di retorica tecnicista. DNA, intercettazioni, pareri di esperti sul nulla dei fatti. Numero 2. Anche se quasi nessuno viaggia più, il vecchio sfinito disastro del TAV riprende con urgenza, quella degli amministratori pubblici di non trovarsi nel letto antipatiche teste di cavallo. Una promessa deve essere davvero una promessa se la fai alla gente sbagliata. Vedi Ospedale del Mare a Napoli nella foto. Notizie e approfondimenti su radionota.info. Ecco, nella foto c'è un fantastico crollo del piazzale di un ospedale. Tre. Dato che la cosa più importante è la salute dei cittadini, a Carmagnola potrebbe il deposito unico nazionale di scorie radioattive. Sul Sole 24 Ore del 2 agosto 2017 il ministro Calenda annunciava l'avvenuta individuazione dei siti candidati ad ospitare il deposito per lo stoccaggio di 25.000 tonnellate di rifiuti nucleari e l'apertura di una fase consultiva improntata a trasparenza e comunicazione dopo 2 anni di secretazione. Poi però qualcuno ben informato deve avergli consigliato di aspettare fino a gennaio 2021. Gli anni di secretazione sono diventati 6 e le scorie 33.000 tonnellate. Proprio ora, Ci dicono anche che di tonnellate se ne prevedono 75.000, dato che 42.000 tonnellate verranno prodotte nei prossimi anni. Da chi? Dagli ospedali, naturalmente. Sarete mica contro gli ospedali? Ma avevamo votato contro il nucleare. No, solo contro le centrali. Si vede che la domanda era posta male. Ecco l'occasione di immaginare una risposta più articolata del monosillabo che allora ci fu permesso di esprimere. Saremo capaci di pronunciarla chiaramente, nonostante la mascherina con cui tentano di imbavagliarci? Non ci sono supporti virtuali, solo una lotta ancora da fare, ma per davvero. Per ora le strategie di contenimento del dissenso contengono bene e il nuovo progetto di architettura sociale getta le sue fondamenta spaventose. A ben guardare, però, si intravedono sanzioni minime, redditi compensativi e sostitutivi, esattori e licenziamenti bloccati. Non è welfare, è paura. Stavolta la loro. L'ultima presa a male di questa puntata è l'articolo quasi in fondo alla Rivellula che si intitola Tempi di guerra. Vi ricordate come imperversava la retorica bellicista nella primavera del 2020? Una scelta unanime da parte di istituzioni e mezzi di informazione che nascondeva, sotto le spoglie di strategia comunicativa cruda e diretta, una manovra psicologica su vasta scala. La decisione di impiegare nella comunicazione di massa mezzi e termini che rimandano direttamente alla guerra, evento che non trova luogo in Italia da più di 70 anni, è finalizzata a mettere gli individui nella condizione di censurarsi e contenersi. È cosa nota, tanto da diventare cliché cinematografico, che si debba attendere la fine della guerra per ballare e festeggiare. L'uso insistito di termini come nemico, vittoria, coprifuoco, eroi, ma anche i transennamenti, le file di gente muta fuori dai negozi, i militari che spostano gruppi di persone nelle pubbliche piazze, sono tutti elementi che inducono nelle persone più impressionabili e quindi forse anche più sensibili all'indottrinamento mass mediatico, un reale disagio nel prendere atteggiamenti e nel condurre attività che improvvisamente, oltre che vietare, diventano in un qualche modo sconvenienti e irrispettose. Ed ecco la magia. Una parte la fa la legge, a nessuno piace pagare le multe, mentre l'altra è data da questa sorta di emotività indotta. Del resto è stato esplicitamente spiegato sui mezzi di informazione come la misura coprifuoco non abbia alcuna funzione sanitaria, ma serva piuttosto a far capire ai cittadini quanto il momento sia grave. Quell'ansia in più che non guasta mai. La guerra è dunque costruita con parole e provvedimenti, ma non c'è. La pretesa di censurare abitudini, relazioni, rituali collettivi e pratiche culturali pare assomigliare più a quella messa in pratica da regimi di ogni tempo e colore, che difatti hanno anche sempre incoraggiato la delazione come strumento principe di conservazione dell'integrità della comunità. A guardare bene, quindi, la condizione in cui ci siamo trovati e per molti aspetti ci troviamo ancora oggi, ricorda più quella di quanti, soggetti a una dittatura oppressiva, si trovino a dover infrangere la legge per continuare a vivere, per rivendicare la legittimità di esistere, di pensare, di lottare e di gioire. Siamo ancora qui su Radio Wombat, l'arte del vizio. Questa è la frittole Sam Ball. E come volete, se volete fare l'ultimo pezzo, noi siamo in vostra... Ah, un pezzo rappato mi suggeriscono dal pubblico, con uno. Uno con uno, uno con uno. Grazie, Albus. Insisti, insisti. Facciamogli un beat a questo ragazzo. Un beat? Yo. Sono le campane. E questo è il nostro arrangiamento. E ora ci arrangiamo. Cerchiamo una sfumatura, non so, più da sirena. Una sirena che... sirena, appunto. Una cosa che... sì, ci fa sfogare anche. E andare un po' più veloce. Yeah, yeah. Allora, la storia è questa. Soldatini, yeah, ah. Soldatini, siete solo soldatini per la figa ed i quattrini. Soldatini, siete solo soldatini, gioco cui si stancano presto pure i bambini. Yeah, soldatini, statemi a sentire. Nelle vostre macchine correndo, nelle vostre cose vedendo, scopro il vostro gioco e dissento, non trovando il senso delle vostre macchine da guerra, per le vostre facce di merda, in copertina su tracce in cui tutto fumo e niente erba, calano gli abiti, acta no verba. Soldatini, siete solo soldatini per la figa ed i quattrini. Soldatini, siete solo soldatini, gioco cui si stancano presto pure i bambini. Ah. Soldatini, siete solo soldatini per la figa e tanto si sa che non c'è artista senza strada e senza mista. Non come questi giocattoli da rivista, con una punchline vanno dritti dal dentista. Hanno le cagne solo perché hanno come sponsor Friskas. Spezzo rapper sembra Kit Kat. Io perle, voi sassi di crack nelle vostre rime. Sì, c'è meno senso di una busta con più cellofan che droga dentro sé. E statemi a sentire se vi dico che soldatini, siete solo soldatini. Mastico come una gomma da masticare, insomma quando è che vi levate dal sole che mi fate ombra. Ah. Soldatini di cemento, discretolate al vento, da quanta sabbia avete dentro, io non ci sento, per una scena piena di perditempo, se è il vostro impegno io non ci sto. Io la vostra scuola proprio no, non la frequento. Soldatini, siete solo soldatini, volete fare fortuna ma la fortuna non vi farà primi. Saluto da Frittole Studios. Ai, ai, ai, ai. a casa va. Non ci stanno avanzi qua. Tempo noi lo scriviamo finché vogliamo. Oddio, oddio, grazie. Grazie, uno. Grazie Frittole Ensemble, è stata una serata incredibile. 21 e 18 possiamo andare a cena. Restate su Radio Wombat, probabilmente ripartirà il vuoto o la bobina, non si sa. E noi ci sentiamo tra qualche domenica. Fra due domeniche. Fra due domeniche, dice Palmiro? Fra due domeniche. Okay. No, fra una e una sì e una no, praticamente. O una no e una sì. Va bene, buona serata. La soluzione ve la diamo in codice binario, dai. Evviva, evviva. Ciao a tutti. Un saluto. Fino a qua. Figa malapena, l'ho scopata fino a qua. Figa malapena, l'ho scopata fino a qua. Figa malapena, l'ho scopata fino a qua. Scopata fino a qua, figa malapena, l'ho scopata fino a qua, figa malapena, l'ho scopata fino a qua, figa malapena, l'ho scopata fino a qua, figa malapena, l'ho scopata fino a qua. Thank you.